perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Strage all'aeroporto di Istanbul, almeno 41 morti, il racconto di un italiano presente. Ho visto il disastro, Erdogan paga l'accordo con Israele e la pace con Mosca. Brexit, nuova seduta positiva per i mercati mentre i vertici europei sono riuniti, il governo al lavoro su una rete di sicurezza per le banche. Un'altra donna uccisa dal suo compagno, questa volta davanti alla figlia di 12 anni, accaduto nel Pavese ed era stata già picchiata dall'ex, la donna trovata morta ieri a Modena. In rianimazione, una bambina di 2 anni è stata ricoverata a Genova. I genitori le facevano seguire la dieta vegana a rischio danni neurologici. Lui la molesta, viene arrestato e poi liberato. Il giudice dispone il divieto di avvicinamento, ma vivono sullo stesso pianerottolo. Nuovo capitolo della disfida su McDonald's in piazza Duomo a Firenze. L'azienda fa sapere in trattative da 3 mesi. Il sindaco si era dichiarato contrario. Gente già in fila da stamattina a Roma, in Campidoglio è stata aperta la camera ardente di Bud Spencer, domani i funerali. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti, il 349-238-6666 per i vostri messaggi, tanto via sms quanto su WhatsApp, effettogiorno@radio24.it per scriverci, e il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno, nel quale vi diamo quotidianamente qualche anticipazione sulle cose sulle quali stiamo lavorando in trasmissione. Tra un attimo andremo a collegarci con Istanbul per sapere esattamente qual è la situazione con Marco Barbonaglia, che ci ha aiutato appunto a raccontare l'attentato all'aeroporto di queste ore. Vi ricordo i numeri: 41 morti al momento e oltre 140 feriti. Al microfono di Katia Caramelli iniziamo da qua il racconto di Edoardo Semmola, che è un giornalista italiano del Corriere Fiorentino che era appena atterrato ad Istanbul proprio nel momento nel quale c'è stato l'attentato. Sentiamo. Ho visto il disastro, ho visto le macerie, ho visto il sangue per terra, ho visto un aeroporto sventrato, una scena da terremoto. Ho sentito il panico che iniziava, ho sentito colpi di rumori, di quelli che sarebbero stati spari, ma io non l'avevo capito lì per lì. Ho visto gente correre, inseguire qualcuno, un'ombra che passava di là dal vetro. Io mi stavo camminando verso il punto in cui ti controllano il passaporto, fanno il check-in per entrare in Turchia, diciamo. E lì ci hanno bloccato, e ci hanno bloccato per 1 ora e mezzo, cioè la polizia ha cominciato a dire no, fermi, via via, indietro, e lì ti rendi conto che c'è qualcosa che non va. Dopodiché ci hanno evacuato, e mentre evacuandoci ci hanno fatto passare attraverso le macerie, quindi ho visto durante l'evacuazione che cosa questi terroristi avevano fatto, e avevano fatto una roba terrificante. Per un'analisi su questo attacco abbiamo raggiunto Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. La Turchia paga le politiche di Erdogan di questi anni. Il presidente turco ha aperto insieme all'ex primo ministro Davutoğlu quella famosa autostrada della Jihad che ha fatto passare migliaia di combattenti islamici per combattere il regime di Bashar Assad. Ora questi combattenti islamici si sentono traditi dallo stesso Erdogan, che ha fatto la pace con Israele e ha riaperto i canali diplomatici con Mosca, e in pratica si ritorce contro la Turchia proprio quell'ondata jihadista che aveva favorito da una parte per abbattere Assad e dall'altra aveva sostenuto in funzione anticurda, perché come sappiamo bene uno degli incubi maggiori strategici della Turchia è la nascita di uno Stato curdo alle sue frontiere. È prevedibile secondo te che questi attacchi, che attacchi di questo tipo proseguano? Immagino di sì, anche perché sono già stati preceduti da altri attacchi nelle scorse settimane e negli scorsi mesi. E penso che purtroppo questo sia uno degli interrogativi più inquietanti oggi per la sicurezza della Turchia, ma non solo della Turchia, cioè che ci siano altre dozzine di jihadisti pronti in qualche modo a entrare in azione. Il risultato sarà anche determinato da quanto accadrà sul campo, sia nella battaglia dell'Iraq sia in quella della Siria. I jihadisti sono in arretramento e probabilmente il terrorismo è la loro ultima frontiera di combattimento. Questo è il quadro della Turchia, vedremo se più avanti saremo in grado appunto di collegarci con Istanbul, con la quale evidentemente abbiamo qualche problema. Veniamo alle cronache dal dopo Brexit, che ci parlano innanzitutto di una giornata di borsa, anche quella di oggi positiva, con il FTSE MIB che guadagna il 2,38%, il FTSE Share il 2,26%, e positive sono anche le altre piazze finanziarie europee, Francoforte più 1,81% e Londra più 2,16%. La tensione è concentrata sul Consiglio europeo, partiamo da questa voce. Ed è la voce di Jean-Claude Juncker. Sergio Nava, cosa succede? Allora, Juncker, che in lussemburghese oggi ha detto l'ovvio, e cioè che per la prima volta manca un commensale. Il Gran Bretagna oggi non era presente al vertice informale, il primo nella storia senza un paese membro, causa esclusione. Le bozze di conclusioni finora circolate non fanno molta luce sui mesi di incertezza che si preparano dopo il ripetuto no di David Cameron a far scattare l'articolo 50 di divorzio prima dell'autunno, scaricando così l'onere sul suo successore. Siamo pronti ad affrontare ogni difficoltà che dovesse derivare dall'attuale situazione, scrivono i 27 nella dichiarazione congiunta che diffonderanno a breve. Un senso di colpa strisciante fa apparire tra le righe la necessità di fare di più per rispondere alle attese dei cittadini per la sicurezza, la prosperità e le prospettive di futuro migliore. Dobbiamo agire non ultimo nell'interesse dei giovani, affermano i 27, che cominciano a sentire il distacco di una parte consistente della società verso il progetto comunitario. Il resto sono appelli a fare presto. Per organizzare il ritiro ordinato della Gran Bretagna spetta al governo britannico, appena sarà pronto a farlo, notificare al Consiglio la volontà di attivare l'articolo 50. Sarebbe preferibile che questo avvenisse rapidamente, allo scopo di evitare di entrare in un prolungato periodo di incertezza. E infine, non ci potrà essere alcun negoziato dell'Unione Europea con la Gran Bretagna prima che abbia avuto luogo la notifica dell'articolo 50. Tra le righe, i leader europei si intestano anche la leadership nei negoziati, tagliando fuori la Commissione, e anticipano che ogni intesa futura siglata con Londra come paese terzo dovrà essere bilanciata in quanto obblighi e diritti. Sullo sfondo resta l'avvertimento lanciato ieri sera da David Cameron, secondo cui l'inerzia europea nel fermare l'immigrazione ha portato Londra fuori dall'Europa. È tutto, Simone. Grazie, Sergio Nava. Brexit, l'estate dell'incertezza. E con questa sigla vi introduciamo ad un appuntamento, uno speciale che coinvolge tutto il nostro gruppo editoriale, a partire dal Sole 24 Ore, banche, pensioni, casa, risparmi, come affrontare e vincere i rischi della Brexit. Ci si interroga su come reagiranno i mercati e l'economia reale, appunto, all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Lo speciale, come avete sentito, si chiama Brexit, l'estate dell'incertezza. Il Sole 24 Ore viene incontro ai dubbi ogni giorno, a partire da oggi, ci sono già ampie pagine oggi. Un appuntamento anche a Radio 24 tutte le mattine nei giornali radio delle 7 e delle 8 e naturalmente in effetto giorno. Oggi ci concentriamo su quello che può succedere alle banche e iniziamo con una voce, quella del vice ministro dell'economia Enrico Zanetti, intervenuto questa mattina ospite di Oscar Giannino e Alessandro Milan proprio sul tema del salvataggio o della rete di sicurezza, per meglio dire, per gli istituti di credito. Zanetti, è possibile violare le norme europee in caso di crisi sistemica, che speriamo non avvenga, a salvare le banche? Pubblicamente. Allora, violarle ovviamente no. In caso di crisi sistemica è previsto, pare nell'articolo 32 stesso della direttiva, che ci possano essere delle deroghe. Deroghe naturalmente che devono essere appunto concordate sempre in quadro europeo e quindi non ne costituirebbero in alcun modo violazione. Ora però, prima di pensare di essere in questo contesto, ce ne passa. È ovvio che essendo una situazione in questo momento, prima ancora che delicata, una situazione con difficili esiti previsionali sia sulla durata delle diciamo delle tensioni sia sulla quantità, perché è una situazione oggettivamente senza precedenti, è ovvio che si sta monitorando con grande attenzione e si è questo è un conto. E restiamo dunque appunto su tutto questo, lo facciamo con Moria Longo del Sole 24 Ore, che tra l'altro firma il pezzo portante della prima puntata di questo speciale Brexit, l'estate dell'incertezza del Sole 24 Ore. Moria, buongiorno. Buongiorno a tutti. Mi sembra che la rete di sicurezza che si sta approntando è una rete di sicurezza in realtà europea più che italiana, anche se il caso italiano per certi aspetti è particolare, no? Sì, assolutamente, come diceva il Vice Ministro, giustamente le regole, quelle del bail-in, cioè questa normativa che prevede che non si può più salvare una banca, in realtà la stessa normativa sul bail-in prevede delle eccezioni, in casi eccezionali, in casi di crisi sistemica, è possibile derogare, quindi sospendere la normativa sul bail-in e fare un intervento statale, pubblico, che può essere con fondi statali, con fondi europei, quello poi va definito, per salvare un sistema bancario che rischia di andare in crisi. Questa è una crisi europea, perché il referendum di Brexit colpisce tutti. Purtroppo le banche italiane sono state le più bersagliate in borsa, ma questo per vari motivi, a partire, oltre alle debolezze che loro notoriamente hanno come crediti in sofferenza, c'è un problema di rischio paese e di vendita sulle banche. Sulle banche si sta concentrando la stessa crisi che c'era stata nel 2011 sullo spread. Oggi sullo spread non si va più a vendere perché c'è la BCE che compra titoli di Stato, tutto si è scaricato sulle banche. Quindi questo può poi provocare delle conseguenze sugli aumenti di capitale che devono essere fatti, quindi una serie di conseguenze anche reali sulle banche, quindi sull'economia reale, e quindi potrebbe essere questa una delle eccezioni, una delle condizioni eccezionali per cui intervenire sospendendo le regole sul bail-in e intervenendo direttamente con fondi pubblici. Ti ringrazio, grazie anche per oggi a Moria Longo del Sole 24 Ore. Dunque proseguiremo nei prossimi giorni, proseguirà il Sole 24 Ore, lo faremo nei GR, come avete sentito anche qua in effetto giorno, e come ormai sapete, se siete ascoltatori fedeli, da giorni se ne stanno occupando Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone, e naturalmente continueranno a farlo in cuore e denari. Dunque siamo in grado di collegarci con Istanbul con Marco Barbonaglia. Marco, buongiorno, dacci un quadro di cronaca della situazione. Buongiorno Simone. Sì, il bilancio dell'attacco di ieri sera si è ulteriormente aggravato. Sono le ultime notizie, sono di 41 morti, tra i quali 10 stranieri. Sappiamo che ci sono degli iraniani, degli ucraini, pare un palestinese, mentre sono ormai 239 i feriti accertati. Di questi 109 sono stati dimessi, mentre altri 130 sono ancora in ospedale. Noi non sappiamo in questo momento in quali condizioni, possiamo però facilmente immaginare che alcuni siano in condizioni drammatiche. Per quanto riguarda la dinamica di questo attentato, si sarebbe trattato, non ci sono conferme ufficiali, ma insomma tutte le fonti parlano di questo, di un comando di 7 persone, 3 dei quali sono morti nell'attacco facendosi esplodere. Pare che abbiano tentato, almeno 2 di questi, di aprirsi un varco all'ingresso dell'aeroporto, l'aeroporto Atatürk, come anche l'aeroporto di Sabiha Gökçen, quello nella parte asiatica di Istanbul, ha un metal detector proprio all'ingresso, quindi per entrare bisogna passare attraverso questo posto di sicurezza, e solo aprendosi un varco, come hanno provato a fare questi terroristi con dei fucili automatici, si può tentare di entrare. E al momento in cui sono stati fermati dalle forze di polizia si sono fatti esplodere. Un'altra esplosione è avvenuta nel parcheggio, 3 persone sarebbero in fuga, mentre sarebbe stato catturato il 7° terrorista, che secondo altre indiscrezioni sarebbe una donna. Tutto farebbe pensare all'ISIS, che la pista sia questa, l'ha confermato questa mattina anche il premier Bin Ali Brahim, che non ha ovviamente detto che ci sono certezze, ma comunque ha confermato che tutti i sospetti sono orientati in questo senso. L'altra notizia di oggi è che Vladimir Putin ha telefonato Erdogan per fargli le condoglianze per quanto accaduto, e che la telefonata, fonti vicine al presidente Erdogan hanno definita molto positiva e cordiale. L'attentato è arrivato comunque con una strana coincidenza, uno strano tempismo, è arrivato nel giorno, è presto per fare analisi definitive, ma comunque è arrivato nel giorno di un tentativo di disgelo tra Russia e Turchia, e anche nel giorno nel quale Ankara ha ripreso i rapporti con Israele dopo 6 anni di crisi durissima. Ti ringrazio, grazie Marco Barbonaglia per questo aggiornamento. Veniamo all'Italia, un'altra donna uccisa dal compagno. È stato lui stesso a raccontare con un SMS inviato ad un amico quello che aveva appena fatto. Roberto Garini, infermiere di 51 anni, aveva ucciso a colpi di pistola la sua compagna Manuela Preceruti, 44 anni, al termine dell'ennesimo litigio. È accaduto ad Orno, un piccolo comune in provincia di Pavia. Decisiva la testimonianza della figlia della donna, una ragazza di 12 anni che ha assistito al delitto. Dopo l'ennesima discussione, la mamma, ha raccontato, la ragazza si era chiusa in casa. Magarini ha sfondato la porta e l'ha uccisa con 6 colpi di pistola. Ferita leggermente, in modo accidentale, la ragazza è scesa in strada in cerca di aiuto. Poco dopo sono arrivati i carabinieri e Garini è stato arrestato. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E continueremo a parlare di femminicidio più avanti nel corso della trasmissione. Torneremo a Modena per la vicenda della donna uccisa ieri, ma adesso cambiamo decisamente argomento e ci spostiamo a Roma, dove c'è fila per la camera ardente di Bud Spencer. Andrea Viali, buongiorno. Sì, è così Simone, nonostante il gran caldo che c'è oggi a Roma, sono già molte le persone che da questa mattina si sono messe in fila in Campidoglio per fare visita alla camera ardente di Bud Spencer, che è stata allestita e aperta alle 10 nella sala della Protomoteca. È l'ultimo saluto da parte di molti romani, ma anche di persone arrivate da tutta Italia, diciamo ad un'icona del cinema italiano degli anni 70, un attore, come sappiamo, molto amato soprattutto per i film in coppia con Terence Hill, Carlo Pedersoli, così si chiamava Bud Spencer, lo ricordiamo, è morto 2 giorni fa all'età di 86 anni e prima di diventare un po' il gigante buono del cinema italiano era stato anche olimpionico di nuoto, poi pilota di aerei, infatti insomma un personaggio davvero poliedrico. A breve qui in Campidoglio è attesa il sindaco di Roma, Virginia Raggi, alla quale la famiglia di Bud Spencer ha chiesto di tenere un'orazione funebre per ricordarlo. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 oggi pomeriggio, i funerali si terranno invece domani a mezzogiorno a Piazza del Popolo nella Chiesa degli Artisti, Simone. E grazie anche ad Andrea Viali per questo racconto della camera ardente di Bud Spencer. Adesso noi ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi inizieremo il nostro consueto giro per l'Italia. Inizieremo da Genova, dove c'è una bambina ricoverata e c'è il rischio di danni neurologici, i genitori sono vegani e così la alimentavano, questa era la sua dieta. E poi a Firenze, perché ci sono aggiornamenti, l'abbiamo seguita tanto e ci dovevamo tornare sulla famosa disfida sul McDonald's in Piazza Duomo. Il sindaco non la vuole, l'azienda replica, abbiamo sentito l'assessore nei giorni scorsi, è l'azienda che sentiremo oggi. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della strage all'aeroporto di Istanbul con le vittime che sono salite a 41, della Brexit e della nuova seduta positiva per i mercati. Abbiamo parlato di un nuovo caso di femminicidio, una donna uccisa dal compagno in provincia di Pavia. Abbiamo parlato anche della camera ardente aperta per Bud Spencer. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e aggiungiamo qualche punto sulla nostra mappa che potete trovare sul sito www.radio24.it, e lo iniziamo da Genova. Lo facciamo con Alberto Ferrando, che è presidente dell'Associazione Pediatri Liguri. Buongiorno dottor Ferrando, benvenuto. Buongiorno, grazie. La vicenda è questa e viene raccontata dal quotidiano La Repubblica, una bambina di nemmeno 3 anni che viene ricoverata all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova in condizioni gravissime e portata immediatamente in rianimazione. I medici riscontrano una serie di carenze come quella per esempio dell'emoglobina e non solo, rischia adesso di riportare dei danni neurologici. Che cosa succede? Succede che i genitori sono vegani e avevano deciso di far seguire alla bimba questa stessa dieta. Allora, dottor Ferrando, è un elemento di preoccupazione questo, perché sono già altri, con questo sono 3 i casi che sono stati registrati in Italia di questo tipo. Infatti, dall'inizio dell'anno. Ma è un elemento di preoccupazione non tanto la dieta vegana, che è una tendenza in aumento con richieste anche di diete vegane passate presso la ristorazione scolastica dei comuni in tutta Italia. La preoccupazione è la dieta fai da te, perché i bambini hanno bisogno, come gli adulti, di alcuni alimenti, di alcuni elementi come vitamine, sali, minerali, e i bambini ne hanno bisogno in modo molto più accentuato, perché la carenza di alcune sostanze come la vitamina B12 può determinare dei danni irreversibili. Ecco, proprio su questo mi vorrei soffermare. Ci può spiegare che tipo di danni sono? Cioè che cosa? Ovvio che lei non ha il quadro clinico esatto di questa bambina, evidentemente. Però no, stiamo parlando in generale. Ma quali rischi comporta una dieta squilibrata da questo punto di vista? Cioè che cosa rischia questa bambina? Ma se quanto riportato corrisponde alla dieta vegana e il quadro clinico è quello della carenza della vitamina B12, perché la dieta vegana, ormai lo sanno tutti, è una dieta che prevede l'esclusione completa di proteine animali, quindi non solo carne e pesce, ma anche latte e latticini. E la vitamina B12 è presente, anche se è presente in alcune, per esempio nelle alghe, non è sufficiente per l'alimentazione, per la crescita del sistema nervoso centrale per i bambini. La vitamina B12 ha importanza per il sistema nervoso, per lo sviluppo, ha importanza per l'anemia, quindi si può dare delle anemie che si possono correggere. La carenza di vitamina B12 può portare a una mancata formazione della sostanza cerebrale, proprio dalla corteccia cerebrale, e se presa in tempo e supplementata può essere reversibile, ma se la cosa dura per anni, un danno avvenuto nei primi mesi, anni di vita, può non essere recuperabile completamente. Mi sembra di capire che la raccomandazione che date voi, Ferrando, è quella: se i genitori decidono per una dieta rigidamente vegana, anche per il figlio o la figlia, di farsi seguire attentamente da un pediatra, no? Da un pediatra, o almeno seguire bene quello che viene detto anche da delle associazioni vegane, perché danno delle raccomandazioni chiare, quindi senza entrare in merito a niente, rispettando le scelte di qualsiasi persona, le cose si possono fare se si fanno bene, ma questo vale anche per la dieta normale, perché come pediatra vediamo dei bambini che fanno delle diete incongrue, e carenze di vitamina D e di vitamina C avvengono anche in quelli che mangiano, per così dire, normalmente. La ringrazio, grazie al dottor Alberto Ferrando, che è presidente dell'associazione pediatri liguri e specialista in clinica pediatrica. Vi dico tra l'altro che di questa vicenda si occuperà anche Cuore e Denari domani con Nicoletta Carbone. Dalla dieta vegana, e ci si perdoni, passiamo a parlare di carne. Roberto Masi, amministratore delegato di McDonald's Italia, buongiorno, benvenuto. Buongiorno dottor Spezia e buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie a lei. Il nostro prossimo punto sulla mappa, che trovate anche sul sito, sul nostro sito www.radio24.it, nel nostro giro per l'Italia, è Firenze, la famosa disfida del McDonald's. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi anche con l'assessore Bettarini del Comune di Firenze. Che cosa succede? Succede che McDonald's vuole aprire in Piazza Duomo a Firenze, il sindaco si è dichiarato contrario. Su tutto questo c'è il tema dell'ordinanza, anche di questo abbiamo parlato, dell'ordinanza che impone ai negozi del centro storico di Firenze, dell'area tutelata dall'UNESCO, di tenere un po' di cibi, una certa percentuale di cibi autoctoni, una, devo dire, un'ordinanza piuttosto curiosa e della quale ci siamo occupati. E però insomma sembra che le cose da questo punto di vista non procedano. Abbiamo anche obiettato nei giorni scorsi a Bettarini che non è che Piazza Duomo a Firenze in questo momento sia questo gioiello dal punto di vista dei negozi da poter dire appunto a un'azienda come McDonald's non stateci. Però il punto che ci interessa innanzitutto, Masi, è questo: c'è stata grande sorpresa, no, per questa vostra idea di aprire in Piazza Duomo a Firenze. In realtà lei ha rivelato oggi in un'intervista, dice: guardate che siamo in trattativa da 3 mesi, Nardella, il sindaco, lo sapeva benissimo, Bettarini altrettanto. Sì, confermiamo che ci siamo incontrati più volte e abbiamo dimostrato, e per questo ci eravamo anche un po', come posso dirle, illusi, che eravamo sulla giusta strada, perché abbiamo dato piena disponibilità ad adeguarci a quelle che erano richieste, non dico legittime, perché su questo abbiamo da ridire, ma richieste fatte per adeguarci, diciamo, al primo cittadino di Firenze che ha una certa idea sul decoro di Firenze. Quindi ci avevano chiesto di porre dei punti servizi per il Comune di Firenze, di fare una piccola libreria, di usare il design interno del locale che facesse riferimento alla storicità, grafiche di Firenze storica. Abbiamo dato seguito a tutto e ci stupisce oggi queste dichiarazioni, quindi siamo veramente esterrefatti. Tra l'altro sarebbe un punto vendita McDonald's particolare, perché ci sarebbe il servizio al tavolo, da quel che ho capito. Ovviamente c'è questo regolamento a Firenze che si vuol parlare solo di ristorazione, meno di servizi di ristorazione più rapidi, e quindi quelli cosiddetti fast food. E quindi noi siamo pronti, abbiamo offerto la possibilità di fare un servizio a tavola al 100%. Aveva trovato riscontro positivo. Perché poi c'è stato un dietrofronte. Sì, c'è stato un dietrofronte. Mi dica una cosa, c'è anche questo tema del cibo autoctono, cioè del fatto che bisogna utilizzare prodotti toscani nell'area, appunto, nell'area tutelata di Firenze. Su questo fronte come siete messi col comune? Allora, pur contestando la validità di questa scelta, anche qui abbiamo dato piena disponibilità ad adeguarci rinforzare il nostro approvvigionamento da fonti toscane e fiorentine. Ovviamente alla McDonald's maniera, nel senso che abbiamo dovuto spiegare cosa un cittadino, un turista giapponese o americano che arriva in piazza del Duomo a Firenze, cosa si aspetta quando varca la soglia di un McDonald's, sì. Difficilmente una finocchiona, difficilmente un buon Chianti, quindi ho cercato di spiegargli le logiche poi di scelta dei turisti che lì sono ben presenti, che noi avremmo inserito i prodotti che ci avrebbero suggerito, ma poi il problema era la vendita, perché chi va a solo al McDonald's non per una finocchione, quindi il rischio sarebbe stato che avremmo messo dei prodotti che poi non si sarebbero, che poi non si sarebbero venduti. Senta Masi, investimento e posti di lavoro. Allora, lì parliamo di circa 4 milioni e mezzo di investimento, 80 posti di lavoro. Cosa che già a Firenze Comune impieghiamo oltre 300 posti di lavoro e abbiamo una fondazione a sostegno dell'ospedale Meyer per i lungodegenti in pediatria. Quindi siamo un partner estremamente importante, abbiamo già 9 ristoranti, già nella zona UNESCO, come viene definita, sì. Quindi questo lo vediamo veramente un'ingiustizia che penso che dovremmo cavalcare, andare fino in fondo. Speriamo di trovare un accordo, che sia stato semplicemente una buttata politica, perché noi diamo piena disponibilità ad adeguarci, ma altrimenti dovremo difendere la libera concorrenza, la possibilità di fare impresa, perché siamo di fronte veramente a delle restrizioni anticoncorrenziali. Che voi giudicate eccessive. La decisione dovrebbe arrivare il 5 di luglio. Abbiamo promesso a Bettarini che ci saremmo risentiti, all'assessore, perché insomma la cosa ci intriga abbastanza. Avete sentito anche le cifre, 4 milioni e mezzo, circa 5 milioni di investimento, 80 posti di lavoro. Al momento tutto fermo e magari risentiremo anche Masi. Noi adesso ci fermiamo, c'è una pausa, come sempre la borsa, e grazie a Roberto Masi, amministratore delegato di McDonald's in Italia, c'è la borsa per fare un punto anche oggi come sempre, e poi nella seconda parte della trasmissione altri due punti che metteremo sulla nostra mappa, Modena e Milano, per due storie che hanno a che fare entrambe con la violenza sulle donne. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: la strage all'aeroporto di Istanbul, sono almeno 41 i morti, il racconto di un italiano presente, ho visto il disastro, Erdogan paga, secondo alcune analisi, l'accordo con Israele e la pace con Mosca. Per la Brexit una nuova seduta positiva per i mercati, ci arriveremo tra un attimo, mentre i vertici europei sono riuniti, governo e Bruxelles al lavoro su una rete di sicurezza per le banche. C'è stata un'altra donna uccisa dal suo compagno, questa volta davanti alla figlia di 12 anni, è accaduto nel Pavese. Gente già in fila da stamattina a Roma, in Campidoglio è stata aperta la camera ardente di Bud Spencer. La borsa. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo e riprendiamo il nostro giro per l'Italia. Il prossimo punto che mettiamo sulla mappa è a Milano, in zona Monforte, e parliamo di violenza sulle donne. È un caso, devo dire, che ci ha stupito molto, è molto particolare. Una studentessa di 20 anni nella notte tra venerdì e sabato rientra nel suo appartamento, appunto in zona Monforte a Milano, e viene sostanzialmente aggredita sessualmente da un suo vicino di casa. Si tratta di un pizzaiolo egiziano di 28 anni che poi è arrestato, si giustifica, dice: ero ubriaco, avevo litigato con mia moglie e così via. Ma il punto non è questo. L'uomo viene arrestato per violenza sessuale. Il GIP Manuela Scudieri decide che non per la custodia in carcere, ma per il divieto di avvicinamento. Il problema è che vive sullo stesso pianerottolo di questa ragazza. Allora ne parliamo con Maria Giuseppa Alcicchia, che è dirigente della Polizia di Stato a Milano. Buongiorno Falcicchia, che si è occupata della vicenda, benvenuta. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. lei capisce che genera un po' di stupore una decisione di questo genere? Poi capisco che sia anche difficile per voi commentare quello che decide un giudice, però no, lascia un po' perplessi. Però lei si è occupata della vicenda, magari ci può aiutare a chiarire, insomma, che cosa è successo. Beh sì, quello che è successo lei lo ha già sintetizzato nel racconto fatto, cioè la ragazza tornava a casa in una serata come un'altra, Milano un po' deserta, notte tarda, erano le 2 di notte, ha trovato questa persona apparentemente gentile, ha aperto il portone, non si è insospettita perché lo aveva già incontrato altre volte, quindi sapeva essere un abitante dello stesso palazzo. Entrano insieme, una volta chiusa la porta diventa praticamente una trappola, lui l'ha toccata nelle parti intime ed è scappata, l'ha inseguita per le scale, era presa talmente dal panico che ha anche sbagliato piano, quindi si è ritrovata nuovamente in trappola, poi giovane, sveglia, è riuscita a dargli una gomitata, a scappare, ha aperto la porta di casa, si è messa in salvo, ci ha chiamato. Questo è il fatto. Noi abbiamo ritenuto di procedere all'arresto perché bisogna dare delle risposte di sicurezza e quindi come Polizia di Stato, Forze dell'Ordine, abbiamo dato un contributo in tal senso. Sì, mi scusi, che nessuno vi obietterebbe l'arresto, certo. Direi su una cosa di questo genere. Prego, comunque. Esatto, sì. E per quanto riguarda poi la convalida dell'arresto venuta qualche giorno dopo, perché è venuta ieri, e anche la disposizione del giudice, come lei ha anticipato, noi in genere le decisioni dei giudici le rispettiamo, sì. Però nel caso di specie, proprio per la particolare, singolare, diciamo, difficoltà a mantenere in essere questo divieto, abbiamo contattato la vittima facendoci parte attiva. Intanto la ragazza non è più in quell'appartamento e probabilmente lo lascerà, non intende tornarci, e questo mi sembra psicologicamente normale. Che è comprensibile, sì. Si è appoggiata degli amici, si sta anche facendo aiutare proprio in un percorso per superare questo shock che ha subito. E quindi di fatto l'incontro non ci sarà, anche per una scelta della persona. E noi, per quello che sono le nostre risorse, le nostre possibilità, siamo sul territorio, l'abbiamo riaccompagnata, la riaccompagneremo anche oggi a prendere degli effetti personali, siamo in contatto diretto e ci facciamo carico del suo disagio e della sua paura. Ed è la cosa importante, sapere che comunque al di là di norme e di leggi, nella realtà ci sono delle persone che si occupano degli altri. Benissimo, quindi siete come dire, siete sul territorio e cercate di garantire anche la sicurezza di questa ragazza, posto naturalmente che adesso si è spostata e quindi evidentemente il suo molestatore non ce l'ha più di fronte come sì, vicino di casa, insomma, no? Beh, ma si è spostata, diciamo, in fretta e furia, quindi ha tutte le sue cose in quella casa, e anche solo il doverci tornare per lei era, a prendere queste cose per lei era un problema. Noi questo lo abbiamo capito e vogliamo essere disponibili e vicini anche in questo. Quindi diciamo che la polizia oggi svolge un ruolo anche di sostegno sociale, anche oltre quelli che erano i normali compiti che fino a qualche anno fa svolgevamo, ecco. E questo è positivo, la ringrazio. Grazie Maria Giuseppa Alcicchia, dirigente appunto della Polizia di Stato a Milano. Le auguro una buona giornata e un buon lavoro. E noi continuiamo a parlare di violenza sulle donne per un'altra vicenda. E il prossimo punto sulla mappa è Modena, dove ieri, come ormai saprete, una donna è stata uccisa, o meglio, ieri nei giorni scorsi una donna è stata uccisa dal suo ex, il quale, dopo averla ammazzata, l'ha messa in frigo, dopodiché ha confessato l'omicidio. Con Valentina Reggiani, che è una giornalista del Resto del Carlino, una collega. Valentina, buongiorno e benvenuta. Sì, buongiorno a voi, buongiorno, grazie. Allora, qua lo snodo, al di là del fatto in sé, un'altra uccisione di una donna che si aggiunge, se vogliamo, a quella che è avvenuta oggi, che arriva dalla provincia di Pavia, lo snodo è ancora una volta una violenza che prosegue nel tempo. Le sue amiche raccontano, e tu lo scrivi nel tuo pezzo, che nei giorni scorsi l'aveva picchiata, le aveva rotto i denti e lei non è riuscita a farsi ascoltare né evidentemente dai vicini né anche dalle forze dell'ordine in questo caso. Sì, diciamo che questa è una delle tantissime vicende complesse dove una donna è rimasta vittima di violenze per tantissimo tempo, perché qua parliamo di violenze che sono andate avanti almeno 2 anni, violenze che la signora aveva denunciato, però spesso, come purtroppo spesso accade, magari c'era un legame molto forte con questa persona e quindi tante volte magari ne parlava, andava a denunciare, poi ritirava le denunce, insomma era una situazione anche complessa, tant'è che io ci tengo a precisare che questa mattina il procuratore capo di Modena, Lucia Musti, ha detto che in sostanza sono emerse tante pendenze nei confronti del fermato che si chiama Armando Canò, tantissimi reati tra cui appunto nei confronti della donna era stato anche, aveva richiesto il rinvio a giudizio, avrebbe dovuto subire l'inizio del processo il 15 di settembre, però ce n'era soltanto una per lesioni e per la violenza domestica, sostanzialmente loro non ne aveva registrate tante perché, ripeto, c'era questo legame fortissimo che spingeva la donna a perdonare, nonostante però fosse seguita dai servizi e tutti si fossero accorti che era ricoperta di lividi non da un giorno, ripeto, ma da due anni, nonostante le avesse rotto la settimana scorsa i denti prima di ucciderla. Quindi quello che denunciano le amiche, che denunciano i parenti, che denuncia l'ex marito, che denunciano i figli, è stata una sottovalutazione da parte di tutte le istituzioni in questo caso, perché al di là delle compresi i servizi sociali in questo caso, esatto, evidentemente, esatto, no? Perché loro la vedevano arrivare con questi ecchimosi in tutto il corpo, con dei segni importanti sul volto, lei comunque si sfogava, quindi in questo sfogo che veniva effettuato davanti ai servizi, davanti agli amici, era comunque una richiesta d'aiuto che a quanto pare non è stata ascoltata, comunque non è stata presa in considerazione. Qua il problema che ci si poneva ieri era: vedono una donna fragile, una donna che comunque è seguita, e le amiche dicevano il problema è se la catalogano come pazza, tra virgolette, poi non viene ascoltata. Invece quando una donna comunque cerca aiuto, anche semplicemente in silenzio, cerca di nascondere un livido, evidentemente qualcosa di grave c'è. Tant'è che i figli erano intervenuti insieme ai nipoti qualche mese fa, perché lei li aveva chiamati dicendo mi sta ammazzando, e addirittura ci sono queste parole agghiaccianti di un nipote che dice abbiamo passato il pomeriggio a raccogliere il suo sangue, a raccogliere i suoi escrementi, perché era talmente spaventata che quando siamo arrivati era quasi morta. Quindi voglio dire, i segnali ci sono stati, evidentemente c'è tutto un sistema che non li ha colti, e quindi quello che chiedevano anche ieri le volontarie che lavoravano con questa donna è una rivoluzione totale, non soltanto appunto di chi va a raccogliere la denuncia, in questo caso delle forze dell'ordine, ma di tutto quello che c'è intorno, sì. A partire da un amico, a partire da un conoscente, a partire da chi per primo interviene, vede una donna magari in lacrime perché l'è stata vista più volte piangere, sì, scappare, gridare, ed evidentemente non è mai stata creduta fino in fondo. Questo è il problema che si è visto a Modena. Ti ringrazio, grazie a Valentina Reggiani del Resto del Carlino per questo racconto, che appunto ha consentito anche una sottolineatura su quello che spesso accade, sul silenzio che circonda queste vicende. Prima di dare la linea al traffico, un paio di risposte agli ascoltatori sulla vicenda, sull'altra vicenda, quella di Milano. Molti ci stanno scrivendo in merito a questo, su cosa si sarebbe dovuto fare, sulle sottolineature che forse avremmo dovuto fare, sull'ingiustizia della decisione del giudice. A nostro ne abbiamo parlato anche solo raccontando la storia. Abbiamo intervistato una persona della Polizia di Stato che, come abbiamo detto, evidentemente, come è giusto che sia, essendo un servitore dello Stato, non si permette di criticare le sentenze dei giudici, quindi magari nei prossimi giorni cercheremo la stessa GIP che ha preso questa decisione. Il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.